Martedì 17 maggio del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, e dal teatro passiamo alla musica, al jazz per l'esattezza, con Michele Villari, che dovrebbe essere in linea. Michele, ci sei? Pronto, sì, ci sono. Oh, che oltre ad essere un amico è anche un gran musicista jazz. Grazie per il gran musicista jazz. Allora Michele, con te per parlare del disco appena uscito Boom Boom con il tuo quartetto, dici un po', allora tanto partiamo dal fatto che tu hai una lunga preparazione musicale, e raccontaci un po' anche di questo, della tua formazione, Michele. Sì, allora, vabbè, diciamo, io nasco al conservatorio, quindi ho studiato musica classica per quasi 15 anni, lavorando in orchestre sinfoniche, sia come studente sia come professionista dopo. Mm-hmm. Il mio grande amore per il jazz mi ha portato poi a cambiare un po' strada, rimanendo sempre con uno sguardo al passato, quindi la musica classica che adoro e che mi insegna tante cose, però come dico sempre, che chi suona la classica ha l'obbligo di guardare al passato, chi suona jazz ha l'obbligo di guardare al futuro, e quindi in qualche modo mi sento un musicista contemporaneo, anche se ahimè il jazz è una musica che insomma nasce e muore ogni 10 anni, si riforma e si riforma insomma con diversi tipi di storia. Poi ce l'hai la faccia da contemporaneo. Faccio da contemporaneo insomma. Senti Michele, e tra l'altro insegni anche. Assolutamente sì, credo che per un musicista la fonte principale di guadagno di sì. vita è insegnare, insomma altri musicisti che poi insegneranno e così via, è una cosa senza fine, no, però vabbè, insomma è anche un lavoro che mi piace fare. Credo che insegnare sia veramente un modo anche di dare della musica, cioè non soltanto suonare dal vivo, incidere, fare concerti, ma insomma si può trasmettere musica assolutamente anche insegnando, credo che, e quindi lo faccio con molto piacere, insomma una possibilità di esprimersi. E oltre a insegnare musica, suoni proprio dal vivo spesso e volentieri con diverse formazioni in diversi luoghi. Guarda, sì, parto dalla cantina disperata del quartiere di periferia ai festival del jazz, insomma, di tutta Italia. Ultimamente ho avuto la fortuna anche di suonare, ne so, al B flat di Berlino, Around Midnight di Londra, a Madrid, a Parigi al Base Salè, insomma ho la fortuna, e ho fatto anche rappresentato quest'anno nella giornata mondiale del jazz d'Italia in Transilvania, a Cluj-Napoca, quindi mi ha fatto insomma veramente piacere. E devo dire che insomma la cosa incomincia a farsi divertente, perché è bello suonare nel localaccio della capitale, ma insomma un teatro talvolta ti dà anche quella però non disdegno, cioè nel senso che è divertente suonare davanti a 12 persone, no? Sì. Quindi il locale è anche insomma una prova importante, perché poi quando sei su qualche grandi non lo vedi il pubblico, lo senti ed è emozionante. Quando lo vedi invece da vicino, anche quelle 15 persone ti danno un'altra carica, insomma. Sì, sì, sì, sì, sì. Ed è molto divertente. Quando ci sei tu è ancora più divertente. Senti, però la tua formazione standard è il quartetto con cui hai anche inciso l'album. Guarda, diciamo sì, questo quartetto allora innanzitutto sono anche degli amici, nel senso sono tutte persone che ho lavorato in questi anni in diverse formazioni singolarmente. Ho reputato che erano le persone più adeguate per la mia musica, per quello che scrivo io, Paolo Pavanna al pianoforte, che tra l'altro anche lui è leader di un'altra formazione, Andrea Colella, un contrabbassista, ci sono da sempre con diverse formazioni, addirittura da cantautori fino al jazz, insomma E invece la punta di questo disco è Federico, che è un ragazzo di 23 anni, giovanissimo, che l'ho colto a una jam session e ho detto: ok, voglio che suoni nel mio disco. E lui è stato benissimo, ha detto: sì, voglio suonare nel tuo disco. Quindi Federico Orfano. Orfano, sì, sì. È stato, insomma, una bella scoperta, e poi, insomma, largo ai giovani, nel senso che lui è veramente giovane, alla metà dei miei anni, quindi, insomma. Senti, una curiosità prima di passare al disco, riguarda proprio i luoghi dedicati al jazz qui a Roma, senza fare nomi, però, insomma, com'è la situazione di luoghi fisici in cui suonare? Guarda, sono 4-5 quelli dedicati al jazz veramente. 10 anni fa, adesso non voglio fare una questione politica, però quando c'era una giunta diversa il jazz andava un po' più di moda con la creazione della Casa del Jazz, quindi, cioè, e quindi si poteva suonare jazz un po' ovunque in maniera più sistematica. Adesso i luoghi sono 4-5 e ogni tanto si suona in altre parti, insomma, cose sporadiche, un po' risicata. Sì, un po' risicata, come un po' fosse passata la moda, insomma. Questo è un problema, tu puoi fare un programma sul teatro, capisci, anche, insomma, no, dove c'è, sì, il momento dove, sì, c'è una grande pubblicità di teatro, si può fare del teatro ovunque, no? In questo, sì, momento invece, insomma, diciamo che poi, vabbè, tagliano i fondi dappertutto, per cui quasi impossibile, sì, anche le principali manifestazioni estive che, sì, c'erano, sì, sì, sì, sì, insomma, vengono castigate, ecco. E arriviamo al disco, Michele. Una curiosità riguarda la nascita proprio del disco, nel senso, volevo sapere se i brani li hai composti e realizzati nel tempo, e poi li hai assemblati, oppure li hai costruiti proprio con l'idea di farne un discorso da inserire proprio in un lavoro apposito. Ok, no, in realtà l'ho realizzato nel tempo, suonandoli con le diverse formazioni, okay, e poi in particolare con questo quartetto con cui ho inciso, e a un certo punto anche loro mi hanno detto, altre persone, soprattutto anche loro, dice: Michele, ma vogliamo incidere i tuoi brani? A noi ci piacciono, quindi già avere un gruppo che ti incoraggia e dice: a noi ci piacciono, vogliamo incidere i tuoi brani, insomma, mi ha lusingato. Però è un lavoro, insomma, di 4 anni, poi non mi ritengo un compositore, quindi, insomma, 1-2 brani l'anno li scrivo per mio piacere, per poterli suonare nelle serate, eccetera, sì, eccetera. Alla fine, una volta trovato questo materiale, che è abbastanza consono, insomma, il disco è formato da brani di diverso genere di jazz, nel senso, è ovvio che hanno un filo conduttore, che sono io che suono e che li scrivo, però c'è il brano più soul, il brano più bebop, il brano più hard bop, addirittura un brano drum and bass, dove, appunto, è riferito proprio ai tempi di oggi, una bossa nova, quindi è proprio un percorso di storia del jazz all'interno di un disco di adesso, insomma. Senti, c'è un omaggio dichiarato a John Coltrane, e a questo punto ti chiedo anche quali sono i tuoi e i vostri riferimenti musicali. Allora, sì, ok, sì, c'è un omaggio dichiarato a John Coltrane, perché, come nella buona tradizione dei dischi jazz, suonare, almeno come la penso io, me le canto e me la suono, è troppo facile. Mettiamo un brano della storia del jazz e vediamo poi come riusciamo a suonarlo, che, insomma, quindi è un po' una sfida, in questo caso con John Coltrane è una grossa sfida, e non so se ci sono riuscito, ma non so se ci riuscirò mai, insomma, a suonarlo bene, perché oggettivamente è uno dei miei musicisti di riferimento, come lui, come Sonny Rollins, che poi stranamente sono tutti tenoristi, io sono un altista, cioè sono sax alto, questo disco. Sì. Però mi confronto con sassofonisti che suonano al tenore, sono quelli che mi piacciono di più, e questi musicisti sono anche in qualche modo il riferimento dei musicisti con cui suono, perché poi stranamente Paul Chambers, che è il contrabbassista di John Coltrane, è uno di quelli amati anche dal mio contrabbassista, o McCoy Tyner, che è il pianista di John Coltrane, Paolo Pavan fa molto riferimento, insomma, gli piace molto, quindi tutto sommato ci siamo trovati d'accordo anche in questo, insomma. Che poi tu non suoni solo il sax, diciamolo. No, sono anche clarinettista. Sì. Sono famoso anche come clarinettista. Sì. Forse è uno degli strumenti con cui ho lavorato di più finora. Però diciamo, questo disco dà un po' una svolta anche alla, no, alla mia formazione, perché mi conoscono molti come clarinettista, ho detto ok, va bene, adesso incido un disco con il contralto e così mi presento in questa nuova veste, o comunque mi presento anche nell'altra veste, ecco. Allora, 9 tracce, in parte hai già risposto prima, però la domanda è, c'è un percorso umano e musicale, artistico riconoscibile in questa scelta dei brani, anche nella sequenza? Guarda, assolutamente sì, ogni traccia ha, dietro ogni traccia c'è nascosta una dedica. Ah, ok. Quindi, vabbè, due sono palesi, no? Che sono Fahrenheit 451, che è un romanzo che io adoro, è un film poi di François Truffaut, un romanzo di Ray Bradbury, è un film di François Truffaut che sì, ho sempre adorato, e quindi perché no, perché non dedicargli qualcosa? Lolita di Nabokov, assolutamente. E poi dovrei entrare nel personale. Comunque, diciamo, certo, che Boom Boom è un gioco che faccio con mia figlia, e quindi ecco, fondamentalmente, siccome è un giochetto che faccio con mia figlia, è un gioco musicale, ed effettivamente quel tema che si sente, insomma, nel disco di Boom Boom è un tema dove lei si diverte tantissimo ogni volta che glielo faccio. Ho detto, ma perché non inciderlo e farne un brano? Insomma, quindi assolutamente sì, ogni brano è dedicato. È per quello che ne scrivo due all'anno, nel senso che devo avere una motivazione, insomma, abbastanza forte. Senti, un'altra curiosità, questa più in generale, riguarda non solo il jazz ma anche le varie derivazioni dal soul al funk, perché nelle mie ricerche musicali mi concentro spesso su due decenni che sono i 60 e 70, soprattutto afroamericani. E la curiosità è, rispetto a molti brani, poi in quel periodo, soprattutto nei 70, c'erano brani sterminati. Cosa ne pensi sul brano jazz che apre e chiude, o su quello che va invece in dissolvenza? Perché è una curiosità che ho detto, perché poi nei dischi fanno così? Cos'è che funziona? Quali sono le regole, per esempio? Se c'è una regola in questo senso. Sì, allora, diciamo che c'è una lunga storia. Sicuramente il brano in dissolvenza è un brano dell'epoca moderna, dove la tecnica di incisione permetteva il fade out, sì, quindi poter finire in diminuendo un brano. Sì. E noi l'abbiamo fatto tra virgolette nel disco invece dal vivo, cioè abbiamo detto, su alcuni brani abbiamo fatto un fade out, cioè diminuendo noi di volume e togliendo, sì, gli strumenti uno alla volta, in modo che sembrasse, però in realtà si sente effettivamente che è una scelta. E l'altra motivazione è che negli anni 30-40, quando si registrava, avevamo due minuti per i rulli per uscire, perché quindi doveva finire con un pum, chat, cioè assolutamente non c'è, quindi è proprio un discorso tecnico. Okay. Oggi per fortuna questo è superato, quindi diventa una scelta come finire un brano, no? Quindi dipende tutto dall'artista a questo punto. Dipende tutto dall'artista a questo punto. Prima era veramente un discorso tecnico, molto tecnico. Senti, Michele. No, la cosa volevo dire importante è questa, sì, che appunto mi sei fatto riferimento alla musica afroamericana. Tutti i generi di questo disco sono afroamericani, tengo a dirlo, questo però è un mio pensiero. Io continuo a essere uno di quelli che appunto crede, e non è una banalità, perché molti non vogliono più credere, che il jazz sia musica afroamericana, o perlomeno che comunque loro hanno il 70-80% dei diritti su questa musica, insomma. Ecco, questa è una cosa che voglio, però è una mia personale filosofia, cioè il jazz è afroamericano. Poi perché no, noi europei lo facciamo molto bene, lo facciamo benissimo, diverso, però bisogna sempre guardare lì. È un po' l'idea di questo disco, anche appunto i brani sono proprio di stampo afroamericano come concetto, insomma. Tra l'altro, ecco, passiamo anche al discorso cinema, perché nel parlare di documentari ne ho incontrato uno che raccontava delle origini del jazz in America e risultava che nella prima incisione c'era un musicista siculo, perché c'è poi una tradizione di tutti i siciliani che sono emigrati negli Stati Uniti, suonavano nel loro nella madrepatria nelle bande di paese, e lì hanno riportato questa usanza che poi era molto legata alle origini del jazz, in cui c'erano le band usate per dei riti come i matrimoni, come le feste, e suonavano per strada, insomma. Ma assolutamente, infatti l'afroamericano ha preso, cioè l'africano in piazza d'America ha preso tutte queste tradizioni degli europei, cioè gli strumenti, la tromba, il sassofono, il contrabbasso, eccetera, cioè il pianoforte, l'hanno imparato andando a scuola o alla banda dall'europeo che veniva, cioè questi sono strumenti proprio europei, cioè, nella storia della musica. È vero anche, guarda, io ti dico, il primo eccidio a New Orleans fu fatto dagli irlandesi su 12 italiani considerati neri, perché erano siciliani ed erano scuri, quindi c'è stata una storia di razzismo anche sugli italiani, sui bianchi, eccetera eccetera, questo è assolutamente sì. Però diciamo che è la fusione, no, di due culture, dove però è preeminente la blue note o quel colore blues che avevano invece gli africani, ecco, questo io un po' insisto, no? Poi assolutamente il jazz è una musica di fusione di popolazioni. Oggi l'UNESCO ha fatto appunto la giornata mondiale del jazz, proprio perché il jazz unisce diverse popolazioni, è una musica di aggregazione, quindi esiste una storia di bianchi tra virgolette, perché poi chi è bianco, chi è nero, insomma, lasciamo per poco che trovano, però esiste una storia di bianchi europei che hanno avuto questo non esclude però il fatto che gli africani hanno messo dentro questa musica europea, dentro queste marce militari, le nostre marcette, eccetera eccetera, un colore che è proprio di equivalente africano, che poi viene chiamato blues. Allora Michele, nel salutarci diciamo qualcosa rispetto al disco e ai prossimi concerti, e prendiamo come riferimento, credo, la tua pagina Facebook, giusto? Sì, assolutamente, Michele Villari, lì io pubblico tutti i concerti, anche la possibilità di comprare il disco, anche se appunto volevo una nota, non faccio pubblicità, però insomma lo devo fare, la Irma si è dedicata a me, è un'etichetta molto seria che ha detto non fare, generalmente le etichette vogliono che tu ti compri questo, ti compri quell'altro, paghi questo, perché invece loro hanno detto no, assolutamente non vogliamo niente da te, vogliamo la tua musica, quindi usciranno anche sui portali, mi hanno detto ormai a fine mese, sui portali Amazon, queste cose qua, o anche nei vari negozi di dischi di jazz possiamo trovare questo CD. Quindi mi fa abbastanza piacere, insomma, un'etichetta che questo molto trattamento seria, per quanto riguarda i concerti, insomma, settimanalmente li possiamo trovare su. C'è già una prossima data che è fissata? Con questa formazione no, con altri sì, purtroppo questa formazione sto aspettando delle risposte. Ok, lo sapremo dalla tua pagina. Non voglio per scaramanzia. Senti Michele, nel salutarci, chiaramente è stato un piacere come sempre, e volevo sapere di queste 9 tracce se ne vuoi una per insomma parlare un po' del disco, far assaggiare il disco. L'ultima. Grazie a te. Un abbraccio e ci si vede presto. È una traccia di stampo soul e te la dedico a questo punto. Bello. Un abbraccio. Grazie. Questo è Michele Villari e il suo quartetto Boom Boom, l'album It Isn't It, la traccia numero 9 che chiude l'album. Un abbraccio Michele. Ciao. Grazie Radio Onda Rossa. Ciao. Grazie.